Vendo tutto di Matteo Caccia. La mia chitarra la suona la figlia di Guglielmo. Con il mio computer Luca ci sta già lavorando. Mentre con la mia stilografica Emanuele sta scrivendo il diario della sua nuova vita. Queste sono solo alcune delle persone che hanno comprato le mie cose. E molte altre ne verranno. Perché io vendo tutto. La mia ragazza mi ha lasciato. Dopo 4 anni insieme mi ha lasciato. Lo so, capita. Succede a tutti ed è toccato a me questa volta. Io però ho deciso. Mollo tutto e me ne vado. La mia vita di seconda mano è in vendita. Io ne inizio una nuova. Venite a comprarvela. La vendita è aperta. Oggi vendo la mia muta. Sono le 16:08, questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia, buongiorno a tutti, vendo tutto, @radio24.it, praticamente non la do mai l'indirizzo, però arrivano lo stesso le mail, e tra tutte quelle che arrivano oggi voglio leggervene un pezzo di una che è arrivata martedì, quindi ieri banalmente, martedì 2 maggio, tranquilla Laura, mi ha guardato come dire che cosa stai leggendo, è una mail che ci è arrivata da Dario di Desenzano del Garda, che mi dice: ciao Matteo, sto leggendo in questi giorni il libro 3 uomini in barca, tra parentesi per tacere del cane, che credo che voglia dire per non parlare del cane, giusto? Sì, Laura, non ti sento, mi parli da dietro il vetro. Vabbè. Il titolo è proprio 3 uomini in barca per tacere del cane, di Jerome K. Jerome, o Jerome K. Jerome. Ho trovato il brano che ti mando, lo trovo molto azzeccato per lo spirito del tuo programma. Il brano è molto lungo, quindi tranquillo, non ve lo leggo tutto, però le ultime righe sono molto azzeccate. Sono 3 uomini su una barca che stanno percorrendo tutto il Tamigi e parlano della vita in barca. Uno di loro dice: getta via il ciarpame, amico mio, che la tua barchetta sia leggera e porti soltanto ciò di cui hai bisogno, una casa modesta e dei piaceri semplici, un paio di amici degni di questo nome, qualche persona da amare e che ti ami, un gatto, un cane, un paio di pipe, abbastanza da mangiare e da metterti addosso e un po' più di abbastanza da bere, perché la sete è cosa pericolosa. Troverai che la tua barca si guida più facilmente e che sarà meno soggetta a rovesciarsi. Se poi si rovescia, che importa? La buona, semplice mercanzia resiste all'acqua. Io ringrazio Dario, questo, ripeto, è un pezzo tratto da un libro di fine 1800, mi pare che sia, più o meno. 3 uomini in barca per tacere del cane di Jerome K. Jerome. Grazie ancora, ricordo la mail che è vendotutto@radio24.it, anche se per molti è molto più semplice scrivere sul profilo Facebook, che invece è Matteo Caccia vendo tutto, mi pare, comunque insomma l'ho trovata abbastanza facilmente, altrimenti c'è anche il 349 238 6666, perché oggi si parla proprio di barche, barchine e abbigliamento utile a rimanere asciutti, visto che vendo la mia muta. È una muta corta da 2 mm, se credo che vada bene anche per fare immersioni. Allora, a tutti quelli che mi domandano perché vendi la roba che poi ti può servire per la tua lista di desideri, per un motivo molto semplice, perché tutta la roba che mi serve per fare un'immersione, per attraversare il deserto della Patagonia o per lanciarmi dal paracadute, me la faccio dare quando sono là, perché non ho voglia di portarmi dietro nulla. 349-238-6666 oppure 800-24-0024. Il gioco è questo. Visto che nel raccontarvi che cosa ho fatto con questa muta nella mia vita, e cioè raccontandovi della mia muta vi racconterò di come prima di comprarla ci ho messo un bel 4 anni, perché avevo la sensazione che era troppo tecnica per metterla, io non ero ancora capace di andare in barca per farlo, e quindi ho fatto 4 anni mettendomi addosso della roba completamente fuori luogo. Avete presente quando vi è mai capitato di avere addosso della roba che non c'entrava col luogo in cui vi trovavate? No, perché alla fine, ne parlavamo prima con Bonini, perché l'abito alla fine fa il monaco. Ad esempio la nostra Laura Faggin è andata non so quanto tempo fa a una lezione di Aikido, avete presente quella disciplina che è una arte marziale, anche prima non mi veniva il termine, è un'arte marziale in cui tutti erano con il loro kimono, insomma con la loro roba adatta, lei era infuso e infradito. Un applauso per la nostra Laura Faggin, che era vestita completamente fuori luogo, ma anche il nostro Tiziano Bonini non si è tirato indietro, banalmente è andato a cena di una delle sue tante fidanzate vestito come un boscaiolo, e non è mai carino quando i genitori della tua fidanzata invece sono dei borghesi che ci tengono particolarmente all'aspetto. Ma anche se siete andati a un colloquio di lavoro vestiti in un modo che non c'entrava niente, se avete fatto un corso di qualunque sport con un abbigliamento sbagliato, mi ricordo qualche tempo fa ho visto a una festa di diciottenni, una festa che era in un giardino all'aperto, 2 ragazzi, una coppia di fidanzatini che probabilmente aveva cambiato quella festa dei diciottenni per il gran ballo delle debuttanti. Vi dico solo che mentre tutti erano vestiti in jeans e magliettina e scarpe da tennis, lei sembrava Moira Orfei. 800240024, perché mi raccontiate anche voi, fate outing per una volta e mi dite quella volta in cui eravate vestiti completamente fuori luogo, un po' come è capitato a me prima di comprare la muta di oggi. La muta da barca, Muta corta marca O'Neill, taglia media, colore nero, blu e grigio, spessore 2 mm, collo alto semistagno, cerniera posteriore a chiusura ermetica. Usata tanto sia al lago che al mare, ma sempre risciacquata in acqua dolce. Perfetta per chi voglia stare dentro o fuori dall'acqua senza rischiare l'ipotermia. Valore commerciale 30 euro, base d'asta vendo tutto 99 centesimi. Per informazioni e foto www.radio24.it. Per la diretta 800 24 0024. Vendo per volontà di liberarmi di tutto. Non sono mai soddisfatto di dove sto. Vorrei sempre essere in un posto diverso da quello in cui vivo. Che per certi versi penso che questa tensione sia frustrante. Per altri invece penso che sia vitale. Senza questa voglia l'uomo non si sarebbe mai mosso da dove era. Non avrebbe mai esplorato territori nuovi, non avrebbe edificato case, città. Probabilmente non avrebbe nemmeno costruito navi aerei. Eppure le cose che fanno paura mi hanno sempre attratto. Ho sempre raggiunto gli angoli bui della mia stanza, dopo che mia mamma mi dava la buonanotte. Mi sono infilato un paio di sci, quando mi faceva paura la discesa. E ho iniziato ad andare in barca proprio per il timore verso il mare. Io sono una persona dai gusti tardivi. Sono uno che ha scoperto con gli anni le cose che gli piacciono. E probabilmente molte ancora da scoprirle. Le cose fatte da bambino spesso non le ho nemmeno capite. Ho dovuto rifarle in età adulta per realizzare che mi piacevano davvero. Il tennis, lo sci, ma anche leggere i fumetti, andare al cinema. Altre cose invece ho proprio iniziato a farle da adulto. Ecco, la vela è uno di questi. Dopo il weekend in cui incomprai Guido, l'istruttore saggio, ho iniziato a capire che questa cosa dell'andare sull'acqua spinto dal vento poteva essere divertente. E lì ho iniziato a fare corsi su corsi, nonostante i corsi in realtà non mi fossero mai piaciuti. Ho sempre provato una forma di fastidio verso l'insegnamento, quello canonico intendo dire, quello in cui uno parla e gli altri ascoltano, in cui sei lì per imparare. Ho sempre preferito fare, provare da solo, magari scornarmici sulle cose, ma andare per tentativi. Oppure fare cose insieme a qualcuno che sapeva farle, e quindi imitarlo, seguirlo, rubargli piccoli segreti, e poi ripeterli e ripeterli all'infinito. In questo modo ho iniziato a salire su barche e barchine cercando di capire perché le vele andavano messe in un certo modo o il timone usato in quella maniera piuttosto che in un'altra. Però la vera incognita rimaneva il vento. Cioè, sapevo con esattezza la definizione del vento, no? Che cos'è il vento? Il vento è causato da masse d'aria che si spostano per differenza di pressione, da dove ce n'è di più a dove ce n'è di meno. Il dramma però era capire nella pratica da dove veniva e quindi gestire la barca. Poi un giorno Guido, sempre lui, l'istruttore saggio, mi disse che per imparare a usare le parole bisogna prima imparare la grammatica e lì mi consigliò di iscrivermi a un corso di deriva. Fino ad allora avevo sempre pensato che la deriva fosse un'espressione negativa e si usa per indicare che qualcosa sta andando molto male, perché appunto va alla deriva. Poi dopo 2 settimane di corso di vela su un'isola tra la Corsica e la Sardegna ho capito che la deriva è innanzitutto quella pinna che si trova sotto lo scafo, ma anche un tipo di barca vela. Per essere precisi, una barca molto piccola, in cui si può stare in 2, 3, 5 persone, addirittura da soli. E ho capito perché Guido, sempre lui l'istruttore, a proposito di queste barche, aveva parlato di grammatica della vela. Perché su quelle barchine impari per forza, perché c'è sempre il rischio di bagnarsi, ma soprattutto di capottarsi. Ecco, è stato allora che ho iniziato a capire da dove arrivava il vento, ma soprattutto che avrei avuto bisogno di una seconda pelle, avrei avuto bisogno di una muta, per tenermi caldo. Ma non la comprai subito, la mia muta, quella che vendo oggi. No, io avevo la sensazione che un indumento come quello, così tecnico, così da esperti, me lo dovessi un po' meritare. Sì, lo so che è una stupidata, però sentivo che dovevo diventare un po' capace prima di infilarmi una muta. Una muta che mi avrebbe fatto sembrare un professionista, di fatto. Così i corsi che ho fatto nell'arco di 4 anni li ho fatti tenendomi addosso di tutto, tranne che una muta pure semplice, che sarebbe stata la soluzione più calda, comoda, scarpe da ginnastica, maglioni di lana. Finché arrivò il gran giorno, in cui dopo aver passato il corso per diventare istruttore, tornai nella scuola in cui avevo cominciato, per tenere il mio primo corso. Quella volta l'istruttore ero io. Avevo io la responsabilità di 15 persone che non avevano idea di cosa fosse una barca, di come gestirla, di come raddrizzarla se si ribaltava. Ecco, quel giorno di circa 10 anni fa, prima di arrivare sull'isola, mi fermai al primo negozio di abbigliamento tecnico per la vela e mi comprai questa splendida muta corta da 2 mm. Non lo so se era per la responsabilità, per l'emozione, per la muta nuova, però il primo giorno del mio primo corso di vela decisi di fare vedere ai miei allievi come si andava su una deriva. E alla prima raffica di vento ci ribaltammo io, la barca e la mia muta nuova da professionista. Da quel giorno l'ho indossata tutte le volte che ho messo piede su una barca e da allora in poi ho cambiato idea sui corsi e sull'insegnamento. Sì, adesso penso che nel passare una conoscenza ci sia una forma di generosità. Cioè, quando stai davanti ad un gruppo di persone che ha un dubbio semplice, il dubbio del come si fa, beh, è bello poter avere la preparazione e la sicurezza per dire si fa così. Eppure, nonostante tutto il caldo che mi ha tenuto, questa muta è in vendita. Valore 30 euro, base d'asta 99 centesimi. Per dirmi tutte le volte che siete stati vestiti fuori luogo, 8008. Allora mettiamo qualche puntino dove deve stare, sulle i, cioè innanzitutto mi scrivono 349-238-6666, innanzitutto la deriva è la corrente marina, è per quello che si dice alla deriva, cioè abbandonati alle correnti marine. Guarda, riesco anche a sentire il tono di questo sms, un po' con l'indice alzato, ma ti ringrazio per la precisazione. Poi Alessandro o Alessandra da Senigallia, da sub a sub, non sono un sub però facciamo che parliamo di mute, quindi da sub a sub, quante volte ci hai fatto la pipì dentro? Allora Ale, la devo vendere sta muta, quindi ti pare che posso rispondere a sta domanda? 8 0024 0024, perché c'è qualcuno che è stato veramente vestito fuori luogo. Partiamo con Massimiliano da Rimini. Pronto? Pronto, ciao Matteo. Ciao Massimiliano, dove sei? Sembri in un tornado. No, sono in macchina, ho messo viva voce, adesso mi senti meglio? Adesso ti sento meglio, tu ti senti meglio? Sì, benissimo, perfetto. Senti, io stavo dicendo prima che praticamente ero in bici con l'abbigliamento da ciclista, ho visto l'annuncio di, io siccome faccio il pizzaiolo, ho visto un annuncio in una pizzeria, mi sono fermato, gli ho chiesto da lavorare, il proprietario fortunatamente era un appassionato ciclista e mi ha preso. Ma tu eri vestito proprio con i pantaloncini, le scarpette, tutto, quelle che tutto, ti tengono... Tutto, l'abbigliamento proprio classico da ciclista. E quindi adesso lavori in quella pizzeria lì? Ho lavorato per 2 anni, adesso ho finito di lavorare lì, lavoro in un'altra, però quella volta lì mi ha preso ugualmente, anche le scarpe coi tacchi, sai, sì, presente quelle con l'aggancio. Certo, quelle che ti tengono un po' la punta sollevata, per cui cammini in una maniera bravo. Sembri a metà tra... Sì. Alla fine dai, non è stato malvagio. No, anzi, direi che quasi ti ha aiutato, però ti è andata bene perché il proprietario, mi sembra di capire, era un appassionato di ciclismo. Sì, un appassionato, infatti siamo usciti pure insieme poi in bici. Senti Massimiliano, togli una curiosità, non c'entra niente con la questione dell'abito, ma perché tutti i pizzaioli si fanno la pizza con loro? Tu c'hai una pizza col tuo nome, che è una pizza particolare? È la prima che ho messo, la Max. Mi chiamo Massimiliano. Com'è la pizza Max? La pizza Max era bianca, con i pomodorini, il crudo, la rucola e le scaglie di grana. Ok, e che è cosa... È una classica, però l'ho chiamata come me, dai. Ah, non ok. Non so, secondo me perché siamo un po'... egocente. Ma quindi ovunque tu vada ti spari la pizza dove Max me lo sul menù. Permettono sì. Okay. Me lo permettono, sì. Va bene. Massimiliano, grazie mille. Viva i ciclisti e i pizzaioli. Buona giornata. Grazie mille. Ciao. Ciao. Grazie, ciao. Andiamo a Milano. Celestino, pronto? Pronto? Ciao Celestino. Ciao. Ma è il tuo vero nome Celestino? Sì. Cioè, è dall'inizio che me l'hanno messo. Non è uno pseudonimo quindi. No. E come consulente mi devo presentare con Celestino, non posso. Come, scusami? È come consulente, però mi dicono che è poco serio, ma è il mio nome. Cioè, fai il consulente anche tu? Sì. Niente, adesso siamo già a 3 consulenti che chiamano in 3 giorni diversi. Consulente di cosa, Celestino? È un consulente aziendale, facciamo supporter alle aziende, facciamo i manager prestati. Scusami, i manager? Prestati alle aziende. Ah, ok, cioè quando c'è qualcosa che non va, arrivate voi. Sì. Benissimo. Proviamo. Senti, veniamo a noi, raccontami di quell'abito completamente fuori luogo. Praticamente stavo percorrendo il cammino di Santiago. Nel 2007 avevo mollato tutto per un mese, sono andato a fare questo cammino. Praticamente non ero abituato a camminare, non ero allenato, avevo da poco compiuto i 40 anni. E praticamente i piedi hanno cominciato a crearmi dei problemi, a infettarsi. Che è abbastanza normale, visto che si cammina, si fanno 30-40 km al giorno. 40 km al giorno, sì. E alla fine praticamente i piedi non stavano più nella scarpa, super tecnologica, perché avevo preso una scarpa nuova e non l'avevo collaudata camminandoci prima. Ok. Praticamente sono arrivato in un paese, non ricordo più, ho dovuto comprare delle scarpe italiane costosissime, numero 44, perché gigantesche rispetto al mio piede, e così camminavo vestito con la tuta e con questi scarpe tremende da clown, perché erano gigantesche sotto il mio piede, per riuscire a portare avanti, perché il mio punto d'arrivo era Santiago, con i piedi tumefatti o no, dovevo arrivare alla... Ok, quindi fondamentalmente ti si era gonfiato il piede a causa delle scarpe. Perfetto, però direi che qui più delle scarpe forse Celestino c'era da allenarsi un pochettino. Sì, in effetti. Comunque poi le ho regalate a un convento di suore, di clausura, a Leon. E le hanno messe le suore. Sì, perché praticamente loro le ritiravano e le avrebbero poi date ai successivi malati che arrivavano con piedi... Ai malati, no? Non ai pellegrini. Okay. Pellegrini malati. Celestino, grazie mille. Buona giornata. Ciao. Andiamo a Roma da Fabio. Pronto? Pronto. Ciao Fabio. Ciao, buongiorno. Buongiorno anche a te. Anzi, buonasera. Dimmi tutto. Mia madre... Ma è sempre un po' colpa loro, Fabio. Completamente. Sì. Ok, ti ha mandato a scuola? Terza elementare, mi ha mandato a scuola mascherato il giorno sbagliato. Una cosa, ho 40 anni e ancora me la ricordo. In che senso? Non una maschera discreta, da guardia svizzera, da guardia inglese, avevo un cappello nero alto un metro. Ma scusami, il giorno sbagliato rispetto a cosa? Rispetto a carnevale? Esatto, non era martedì grasso, ci sono andato lunedì o mercoledì, insomma, ero l'unico mascherato. E ancora sto in analisi. Immagino, perché sono traumi questi, Fabio. Senti, ma qualcuno ti ha detto, ce l'hai ancora quel costume oppure no? No, l'ho bruciato il giorno dopo. Ok, grazie mille Fabio, buona giornata. Grazie a voi. Ciao, grazie. Andiamo a Gianfranco Di Ascoli. Pronto? Buonasera. Pronto, ci sei? Pronto, sì, sono qui, buonasera. Eccoti qua, dimmi tutto. Dunque, questa è una cosa veramente molto curiosa, perché il giorno della discussione della tesi di laurea, sì, mi ero messo sto paio di pantaloni blu, sì, che era un po' stretto, però non me lo dovevo ricomprare perché non era un pochettino, era un po' vecchiotto, però sì, dico, non ci avevo avuto tempo e avevo messo sto pantalone un po' stretto. Salendo le scale della facoltà, mi è scivolata qualcosa, non mi ricordo cosa, mi è scivolato qualcosa per terra, mi sono chinato e forse con l'agitazione ho fatto lo scatto veloce, sì, e si è strappato completamente il pantalone. Ah, perfetto. Ma quindi l'hai fatto con i pantaloni strappati alla discussione di laurea. Gianfranco, grazie mille, ti terrei ancora, ma devo andare. Possiamo sentire l'ultima? Ce l'abbiamo, il tempo per l'ultima. Vincenzo da Genova, grazie, ciao. Pronto, sì, Vincenzo? Pronto. Eccoti qua. Ciao, dobbiamo fare purtroppo velocissimo, sì, però so che la tua storia è bellissima. Vai. A me è successo tanti anni fa, ero ragazzo, ero 50 anni, sì, sono andato a San Pietro con degli amici perché ci si era rotto un furgone, sì, giravamo per Roma, sì, ed ero in pantaloncini corti, una camicetta gialla con un tappo della Coca-Cola e capelli arancioni perché ero ossigenato. Okay. All'ingresso una persona della sicurezza, scambiandomi per straniero, mi disse no short, no short, e io ebbi un lampo di genio, li tirai giù completamente con le suore che urlavano e venne inseguito dalle guardie svizzere per tutto San Pietro. Vincenzo, grazie mille. Che lavoro fai tu, Vincenzo, scusami? Io ho un'impresa di pulizia. Ah, ok, grazie mille Vincenzo, buona giornata. Altrettanto. Ciao. Grazie a tutti quanti, non ce la faccio a ringraziarli tutti oggi, però vi ricordo che la mia muta è su radio24.it, domani invece vendo un volante per videogiochi d'auto. Voi invece liberatevi dei vostri indumenti tecnici, che alla fine anche una muta è solamente una muta. Love, love, love, wherever you get